Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Traffico, qualche rallentamento all'Isert e al bivio con la A23 sabato da Bollino Nero, ma disagi per ora contenuti. Ponte traversa sul tagliamento a Dignano, soluzione troppo impattante per le associazioni ambientaliste. A Udine, Borgo Mondo anima il quartiere della stazione, ma nel pomeriggio sono previste manifestazioni di protesta. A Tramonti di Sotto, 4 giorni di formazione per 150 volontari e volontarie di Croce Rossa. Spese per l'energia alle famiglie della regione costano 3.000 euro all'anno, calcola la CGA di Mestre. A Trieste, boom di turisti a San Giusto, rievocatori storici per raccontare la storia e il ruolo della cattedrale. 12:31 minuti, buongiorno da Lara Zani e Rita Micoli al via. Oggi il primo grande fine settimana di partenze. È atteso traffico in aumento lungo la rete ANAS e un bollino nero è previsto per oggi su autostrade Alto Adriatico, in particolare sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste. La situazione del traffico è per ora abbastanza regolare con qualche rallentamento. Sentiamo. È da più di 30 anni che la barriera dell'Isert, nonostante l'iter di ampliamento già avviato, non riesce a fagocitare il flusso di macchine durante gli esodi estivi. L'82% dei vacanzieri diretti verso i paesi dell'area balcanica si muove in macchina, in coda oltre le targhe italiane, tante tedesche. Al mattino la coda all'Isert si è andata via via allungando, superando i 3 chilometri. Previsto anche un piano di alleggerimento del flusso verso Trieste. Ce lo spiega il direttore d'esercizio di Autostrade Alto Adriatico, Davide Sartelli. Quando la coda al casello di l'Isert supera i 3 chilometri, noi con i pannelli consegniamo l'uscita di Villesse. Quando supera i 6 chilometri, noi obbligatoriamente con delle safety car portiamo il traffico al casello di Villesse per poi proseguire per Gorizia. 190.000 i transiti previsti oggi sulla rete gestita da Autostrade Alto Adriatico, che ha messo in campo 220 addetti in tutta la regione. Le aree più critiche, oltre l'Isert, lo snodo di Palmanova con alcuni rallentamenti in direzione Tarvisio. Abbiamo notato che in questo esodo di quest'estate è un po' ritardata, si viaggia meno di notte, al mattino invece arriva una gran mole di traffico, ma si equilibra poi nell'arco della giornata. Anche per la polizia stradale impegno straordinario con ben 28 pattuglie e 70 poliziotti su tutta la rete autostradale regionale, con agenti in borghese nelle aree di servizio per prevenire furti nelle vetture in sosta. Iniziato anche il controesodo a Duino Nord, la prima sosta in Italia dopo giorni spesi al mare in Croazia. Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia. Fa discutere la proposta avanzata dalla Regione di creare un nuovo ponte traversa sul tagliamento. Ne abbiamo parlato con una delle associazioni che propongono soluzioni alternative, come Legambiente. Siamo tra Dignano e Spilimbergo, siamo sul greto del fiume Tagliamento, a poche decine di metri alle nostre spalle c'è il ponte di Dignano, un ponte storico che ha un secolo. Proprio all'altezza di questo ponte la regione Friuli Venezia Giulia sta progettando di realizzare, al momento appunto siamo ancora allo stadio di ipotesi di progetto, di realizzare un ponte traversa per laminare e contenere le eventuali future piene del fiume Tagliamento, quindi proteggere i territori e le popolazioni che si trovano a valle di questa zona. Le associazioni del territorio, le associazioni ambientaliste però si oppongono a questa ipotesi. Allora chiediamo ad Alessandro Ciriani, che è presidente di Legambiente Pinzano, perché no a questa ipotesi della regione di un ponte traversa qui tra Dignano e Spilimbergo. Beh, innanzitutto questa qui è un'ipotesi progettuale, giustamente un'ipotesi ancora, però sembra abbastanza ben definita che non è stata concordata con il territorio, non è stata concordata con nessuno. Noi siamo dell'idea che non si debba intervenire in quest'area fluviale che è intatta, praticamente quella che ha subito meno interventi antropici, ma che anzi la funzione di quest'area intatta vada potenziata attraverso una maggior capacità di trattamento delle piene. Quindi qui si può intervenire unicamente su quell'aspetto lì. La possibilità di ampliare l'area esondabile sono enormi in quest'area. Dopodiché bisogna intervenire nei punti dove ci sono problemi. C'è la parte alta che ha molti problemi, forse sta all'origine di tutti i problemi che abbiamo oggi, e poi c'è la parte bassa che può essere anch'essa migliorata e rinaturalizzata con grande beneficio anche delle popolazioni della bassa. Dignano, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono stati condannati dal giudice monocratico di Trieste i 16 attivisti di Casa Pound che il 4 agosto del 2020 avevano fatto irruzione nell'aula del Consiglio regionale di Piazzale Oberdan, interrompendo i lavori della sesta commissione riunita per l'espressione del parere sulla delibera della Giunta Fedriga inerente al programma immigrazione. Uno di loro, armato di megafono, aveva letto un comunicato contro gli arrivi dalla rotta balcanica, mentre altri sorreggevano dei tricolori. 10 mesi al responsabile Giuliano e a quello regionale di Casa Pound per turbativa e interruzione di servizio pubblico. 6 mesi agli altri partecipanti alla manifestazione non autorizzata. Tutti sono stati condannati anche a risarcire il danno alla regione, quantificato in 10.000 euro. In seguito all'irruzione, il presidente del Consiglio regionale Zanina aveva presentato denuncia. Borgo Mondo è il nome di una giornata di festa ed eventi nel quartiere più multietnico di Udine, quello della stazione, ma contro l'iniziativa si prepara una manifestazione al pomeriggio. Un giro del mondo in 150 metri è quello di scena oggi a Udine lungo via Roma, per l'occasione chiusa al traffico, nel cuore di quel borgo stazione spesso al centro dell'attenzione per fatti di cronaca, episodi di insicurezza e negli ultimissimi giorni anche per la polemica tra comune e regione sulla richiesta di fondi per il piano di riqualificazione proposto dall'amministrazione cittadina. Un quartiere in cui oggi il 40% dei residenti è di origine straniera, con la presenza di decine di comunità diverse, dalla Costa d'Avorio alla Colombia, dalla Siria all'Ucraina alla Romania, che si sono unite con il coordinamento dell'associazione Borgo Mondo per dare vita a una festa colorata e multietnica, con gazebo in cui ogni comunità illustra la propria cultura e i progetti sociali che porta avanti, per lanciare un messaggio di convivenza serena e di attenzione a un quartiere che è di tutti e in cui tutti dicono no alla violenza e al degrado. Marco Rioles, sociologo, project manager dell'associazione Borgo Mondo. Che iniziativa è Borgo Mondo e qual è la sua importanza per Udine e per questo quartiere di Udine come Borgo Stazione? Beh, Borgo Mondo Udine è una festa multiculturale organizzata nel luogo più adatto, cioè il quartiere multietnico della città, quello dove c'è la maggior concentrazione di residenti stranieri, siamo al 40% contro una media del 15%, ed è questo il laboratorio della convivenza, dove è più facile che si inneschino fermenti positivi al di là delle polemiche di cui siamo tutti partecipi, ma c'è anche un altro mondo che è quello della ricchezza, delle prospettive, delle culture e di un'armonia che si può costruire in questa città e anche in questo quartiere. Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. Tra il 2019 e il 2023 le bollette dell'energia elettrica sono rincarate del 108% e quelle del gas del 72,1%, incrementi invece fra il 13,2% e il 3,3% per altre voci tariffarie come le forniture dell'acqua, i servizi postali, il trasporto urbano e quello ferroviario, i taxi, i rifiuti e i pedaggi autostradali, molto inferiori all'aumento del costo della vita che in questi 4 anni è stato del 16,3%. L'unica voce ad aver registrato una contrazione di costo sono stati i servizi telefonici, che nel quadriennio analizzato sono ridotti dello 0,8%. Insomma, dopo la fiammata dei prezzi subita in particolare tra la fine del 2021 e la primavera 2023 a causa della ripartenza post-Covid e degli effetti della guerra tra Russia e Ucraina, la situazione sta rientrando, a dirlo è la CGA di Mestre, che sottolinea come in valore assoluto le tariffe monitorate in questo studio abbiano un costo medio per le famiglie del Friuli Venezia Giulia pari a circa 3.000 euro all'anno, un importo che corrisponde al 12% circa dell'intera spesa familiare annua. Nell'ultimo anno invece il costo delle bollette della luce meno 34,2% e del gas meno 19,6% è precipitato, mentre quasi tutte le altre tariffe hanno registrato un deciso aumento. Confindustria Alto Adriatico è risultata essere la più performante su 18 tra le più virtuose territoriali del sistema, secondo l'analisi dei flussi effettuata dal Centro Studi di Confindustria. Lo studio ha preso in esame il periodo 2019-2023. Cresciuto del 10,5% il numero di imprese rispetto al 2,1% dell'economia reale. In aumento anche il numero dei dipendenti delle imprese associate, più del 37% di crescita contro una media dell'1,9%. Le rappresentano il 33% di quelle associate, le piccole imprese, 10,49 dipendenti, il 45%, le medie, il 19%, e le grandi imprese con più di 250 dipendenti sono il 4%. E adesso a Tramonti, dove è in corso una 4 giorni di formazione intensiva per 150 volontari della Croce Rossa. Campo di formazione della Croce Rossa, una seconda edizione organizzata dal Comitato di Pordenone, 4 giorni in Val Tramontina con 150 volontari e volontarie che sono qui nella sede dell'ex Istituto Comprensivo di Tramonti per migliorare la loro formazione, il loro aggiornamento. Da dove arrivano questi ragazzi e ragazze e come è organizzato in pratica questo campo? Lo chiediamo a Ludovico Melinambares, che è il presidente del comitato della Croce Rossa di Pordenone. Allora, di queste 150 persone, la gran parte arrivano dal comitato di Pordenone, dalle sue sedi territoriali, altri volontari arrivano da altri comitati della regione Friuli Venezia Giulia e poi abbiamo il piacere di ospitare una 15ina di volontari del comitato di Chieti con i quali siamo gemellati. In pratica, come è organizzato? Ogni giorno c'è un programma delle attività con diversi corsi di formazione che vengono svolti per aggiornare dei brevetti già esistenti oppure per approfondire e arricchire il loro bagaglio formativo, con l'obiettivo anche non solo di formarsi ma anche di conoscersi meglio e di fare più gruppo fra tutti i volontari. Un primo bilancio di questa iniziativa che è giunta all'ultima giornata. Assolutamente positivo, tutti i volontari sono molto contenti, si sono divertiti molto. Questa sera, piccola chicca, avremo anche in collegamento video il presidente nazionale che porterà i suoi saluti a tutti noi. Tramonti di Sotto, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport. Scherma, cominciano male le Olimpiadi di Parigi per l'udinese Giulia Rizzi, che abbandona il tabellone individuale della spada femminile dopo la sconfitta contro la polacca Alicia Klasik per 12-11, con la stoccata decisiva arrivata nel minuto supplementare. Inizio difficile per l'azzurra, che non trova mai la distanza giusta dalla sua avversaria, spesso anche bloccata dalla tensione della prima Olimpiade a 35 primavere passate. 4 le stoccate consecutive per la polacca tra la fine del primo periodo e l'inizio del secondo, con l'atleta friulana autrice poi di una grande rimonta che l'ha portata anche in vantaggio, prima del minuto supplementare che ha decretato la vittoria a sorpresa della polacca. La pallacanestro Trieste porta in Serie A Jarod Uthoff, ala di 206 cm, classe 1993, che ha giocato nella massima serie giapponese nell'ultima stagione con gli Yokohama Bee Corsairs, dopo aver militato per anni in G League e aver vestito anche le maglie di Dallas, Memphis e Washington in NBA. È un giocatore che seguiamo da anni, ha detto il general manager biancorosso Michael Arcieri, un talento d'élite versatile nel ruolo di ala che segna da tutte e tre le posizioni e mette una pressione enorme sulla difesa. La sua esperienza, ha concluso Arcieri, è inestimabile per il nostro roster. E ora uno sguardo al tempo: cielo sereno su pianura e costa, variabile sulla zona montana. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 27 gradi con mare quasi calmo con temperatura di 25 gradi. Udine 28 gradi, Pordenone 29 gradi e 5 decimi, Gorizia 32 gradi. A Tolmezzo 26 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 26 gradi, a Forni di Sopra 24, a Piancavallo 20 gradi e mezzo. Sul Monte Doncolan 18 gradi. A Lignano 29 gradi e 5 decimi, a Grado 27 gradi e 5 decimi, temperatura del mare 27 gradi. Ora le previsioni di Arpa Friuli Venezia Giulia. Questo pomeriggio su pianura e costa cielo sereno poco nuvoloso con caldo che inizierà a farsi afoso. Sulla zona montana cielo variabile con possibili rovesci o temporali isolati sulla Carnia. Turismo a Trieste, San Giusto nuovo polo di attrazione grazie anche al richiamo dei rievocatori storici. Veniamo dall'Australia, siamo a Trieste per una sola giornata. Le piace Trieste? Il sole splende, la città è meravigliosa e la vista incredibile. Il cielo limpido permette di godere appieno del panorama. A San Giusto i tanti turisti salgono principalmente per questo, per una foto con sfondo mare, magari illudendosi di vedere fino a Venezia. La maggioranza viene dalle navi da crociera, provengono da Australia, Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna. Il colle cittadino, con la chiesa, il castello e i suoi musei, è una delle attrazioni di Trieste che ha aumentato di più l'afflusso di visitatori rispetto all'anno precedente, più 44%. La storia del castello del resto è affascinante. A raccontarla, in inglese per i turisti, in italiano per i non pochi locali, il gruppo di rievocatori della rassegna estiva La Stagione delle Armi. Per un mese diverse associazioni accompagneranno i visitatori in diverse epoche storiche, dal XIV al XVII secolo. Una sorpresa per chi arriva da lontano. Siamo qui in giornata, non sapevamo e abbiamo visto cosa stava succedendo. La guida è stata davvero brava e interessante poter avere una visione diversa. È bello, è divertente imparare, andare in un posto da dove provengono i tuoi antenati. L'altra settimana eravamo nel nord Italia, ho trovato la rievocazione coinvolgente. Un'occasione anche per i triestini per scoprire aspetti dimenticati come la vita di guarnigione, le mansioni dei soldati, il loro equipaggiamento e l'uso delle varie armi, ma anche aspetti della vita quotidiana dell'epoca. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. A 11 anni dal rapimento di padre Paolo Dall'Oglio, incontro con Leonardo Del Piccolo su relazione, resistenza e coesistenza tra i popoli delle religioni del libro, tra Balcani e Vicino Oriente, Bosnia, Giordania e Iraq. All'ospitale di San Tommaso di Maiano alle 20.30, già nel pomeriggio, dopo le visite guidate dalle 17.30 alle 19.30, letture dei libri di padre Paolo e contributi di vari ospiti. A ricordare la figura di Paolo Dall'Oglio e a spiegare il perché dell'iniziativa è Marino Del Piccolo, degli Amici dell'Ospitale. Padre Dall'Oglio è un sacerdote romano, gesuita, che ha sentito la vocazione a dedicarsi alla relazione tra la cristianità e l'Oriente. Quindi ha trovato in un rudere, Marmusa, un monastero diroccato nel deserto vicino a Damasco, la possibilità in quel luogo di svolgere questa opera che si è fatto autorizzare anche da Papa Wojtyla. Lui ha cominciato nell'84 e ha portato avanti questa opera fino al 2013, quando è iniziata la guerra poi in Siria, e lui, per cercare di salvare dei vescovi e anche per cercare di far capire che la cristianità non si tirava indietro ma cercava di risolvere, alleviare, no, le sofferenze che si cominciavano a sentire, ecco, si è messo in mezzo. E però il 29 luglio 2013 è stato rapito dall'ISIS, poi si sono perse le tracce. Perché questa iniziativa nell'anniversario del suo rapimento? Noi nel 2013 l'abbiamo incontrato e proprio ci aveva detto che sarebbe venuto all'ospitale di San Tommaso di Maiano, perché l'ospitale è l'unico rimasto luogo di ospitalità per i pellegrini che andavano a Gerusalemme, ma anche andavano oltre Gerusalemme, andavano fino alla tomba di San Tommaso in India, no? Quindi era il cammino più antico d'Europa e anche il più lungo. Quindi lui era interessato e ci ha detto: aspettatemi che arrivo. E poi invece è sparito, e quindi noi già dal 2013 abbiamo cominciato a fare questi incontri. Questo pomeriggio alle 17.30 e all'ospitale cominceremo il primo incontro. Dalle 20.30 ci sarà una conferenza di Leonardo Del Piccolo, un giovane laureato che si è dedicato alla conoscenza delle problematiche tra cristianità e le altre confessioni. Ora la musica. Vicent Campos, che stiamo ascoltando, è annoverato tra i trombettisti classici più famosi di Spagna. Lo si potrà ascoltare in due occasioni consecutive a Carne Armonie. Oggi il rinomato solista offrirà con l'organista Javier Caballero Ross un concerto con le migliori pagine del 6-700 europeo, con opere di Purcell, Handel, Buxtehude, Albinoni e Pablo Bruna, alle 20.30 nella chiesa di Santo Stefano a Piano d'Arta. Ancora alcuni appuntamenti di musica. Ricordiamo che Stuart Copeland arriva al No Borders Music Festival. Lo storico batterista e fondatore dei Police salirà sul palco alle 14 ai Laghi di Fusine. I Ricchi e Poveri, Angela Brambati e Angelo Socciu, in Piazza Grande a Palmanova, porte aperte al pubblico alle 20, inizio concerto alle 21.30. Lo show ripercorrerà oltre 50 anni di carriera. Ultimo appuntamento del Montagna Teatro Festival, ideato da Teatro Verdi di Pordenone e CAI, ad Anduins di Vitto d'Asia alle 18, sul piazzale della chiesa di Santa Margherita, il concerto The Look of Love con la Toscanini Nets Quartetto. Per Notte del Timavo, tango da pensare nel castello di Colloredo di Monte Albano alle 21, dimostrazioni coreografiche di tango argentino anticipate da una visita alla mostra fotografica di Lucia Baldini. Conclusione di serata con una milonga aperta a tanghieri e pubblico. Altri spettacoli a Sacile alle 21 al Teatro Zancanaro, concerto sinfonico con l'orchestra del meeting diretta dal maestro Mario Zanette con solisti giovani talenti. In programma Beethoven, Mendelssohn, Sarasate e la Mandragola Overture di Claudio Ferrara. Il sassofonista Daniele D'Agaro negli spazi all'aperto della trattoria Laghetti a Timau con A voce sola, avventura musicale per strumento solo tra Duke Ellington, melodie medievali, canzoni popolari dal mondo, libere improvvisazioni alle 16. Esce oggi Avonde, il nuovo singolo dei Cinque Uomini sulla Cassa del Morto, tratto dal terzo disco in uscita il prossimo autunno. In apparenza una canzone leggera, ma il testo racconta l'ansia del futuro che accomuna questa generazione di giovani adulti, che si costruisce non su relazioni ed esperienze, ma su obiettivi e scadenze. Cinque Uomini sulla Cassa del Morto è un progetto musicale nato in regione e attivo dalla primavera del 2013. Sono oltre 300 i concerti in tutto il nord Italia, dalle aperture a Tre Allegri Ragazzi Morti e Franz Ferdinand, fino alla partecipazione al Collisioni Festival in Piemonte e al Ferrara Buskers Festival, passando per la finale al premio Fabrizio De André. Ad aprile è uscito il primo singolo, Alla fine della festa, tratto dal terzo disco in uscita in autunno. Io mi riprendo. Sarà la Città del Vino di Palazzolo dello Stella ad aprire il programma delle Notti del Vino nel territorio provinciale di Udine, appuntamento oggi dalle 19.30 nel caratteristico porticciolo sullo Stella. 8 i produttori vinicoli locali che hanno aderito alla serata, insieme a 6 stand gastronomici, musica con Chicago Swing Quartet. Sono 28 gli appuntamenti in 26 città del vino in tutta la regione, con per la prima volta quest'anno una puntata a Buje d'Istria in Croazia. Al Community Hub Officine Giovani, promosso dal Comune di Udine, con Circolo Casau Peg & Tap Festival della Creatività Giovanile FOMO, Fear of Missing Out, cioè la paura di perdersi qualcosa, oggi e domani al Parco Ardito Desio di Udine. In scena giovani artisti nello spazio di riqualificazione urbana all'Ottavolo, realizzato con alcuni giovani laureandi in architettura. Si vedrà realizzata l'idea progettuale vincitrice alle 17.45 alla presenza del sindaco e dell'assessora Facchini. E ora le rubriche della TGR. Domani, dopo il GR delle 8.30, su queste frequenze andrà in onda la trasmissione della nostra redazione Vita nei Campi, ultima puntata di questa stagione. Eccone allora un'anticipazione. Vita nei Campi, settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, non della domenica, alle 8.50 su Radio 1 Rai, domani in apertura ai 250 anni del formaggio Montagi, una delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia, a seguire per la lettura dei corsivi di Licio Damiani, quello intitolato Unicorni danzanti nella canicola, nella rubrica del bio i numeri in continua crescita del settore nonostante l'annata piovosa, e ancora la gestione della fermentazione malolattica nel Pigiato, l'elogio dei grandi alberi, ma non solo quelli, anche quelli normali del territorio, gestione delle portate dei dolci nel menù e la ricetta per una bavarese al limoncello. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo, il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR, Friuli Venezia Giulia. È tutto per questa edizione del giornale radio della TGR del Friuli Venezia Giulia, alla parte tecnica Federico Comar e Viola Romanese. In redazione ha collaborato Samantha Gon, da Lara Zani e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.